Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia di Luca Giambonino dal titolo Una nuova alba. Perché è così a volte? Non riesco a concentrarmi, mi perdo nella mia sonnolenza, lo sguardo stanco, la notte insonne. Il sole da fuori è un amato compagno, anche se fra le nebbie mattutine lo si vede appena.